così. E anche noi sono i 9:27. Ora che è in macchina. Buonasera. Buonasera a lei. Tito Antonio e poi mi sa chi c'è, Daniele. Opa. E si conferma, buonasera, buonasera. Cosa mi raccontate di bello? Io sono passato qua al 10, salgo su 45 a farmi due modulate. Io stamattina sono entrato sul 10, ero in chiacchiera, c'era Natalino, niente, poi una mezz'oretta sono rimasto con lui e basta, poi avevo altro da fare, adesso ho acceso, ho detto c'è qualcuno sul 10. Anto, già ero 2 dì senza sentirti. Che mi sembra arrabbiato parecchio. Quello di casa o del lavoro? Quello che c'avevo lavoro, adesso ne ho un altro. Ho capito. E io lo stesso, quando è? Ieri sono passato da Vittorio, quello che fa l'assistenza tecnica. Ho visto quello di Gianni, doppio room, lì, le Saturn Echo, che ce l'ha in riparazione. Che gli avevo portato una mia portatile per vedere se si poteva fare qualcosa perché uscisse in AM. E invece mi ha detto che ci vuole il programma specifico, che lui non ce l'ha e quindi conviene lasciarla così com'è, trasmette solo in FM. Ma cos'è? Un portatile di quelli di nuova generazione. Oh, ecco. Vabbè, cosa ci vuole a trovare il programma? Col computer, l'attacca dal computer, attacca il sensore. Ma non si trova di questo, capito? Già, poi a meno che non quando passerà tempo che lo mettano disponibile, allora si fa. Oh, strano. Un po' strano, sì, perché l'apparecchio è... Ho visto che ce ne sono stati altri con questo difetto, capito? Praticamente riceve bene in AM, ma bene, ma quando va a trasmettere sembra saturo, fuori frequenza, capito? Invece in FM esce bene. Dammi un secondo. Viene, va bene. Via, mi avete chiamato. Cosa ti è successo alla radio lì a lavorare? Si è staccato un pironito e me l'ha scioccato, non so cosa si sia bruciato. Ti ha bruciato proprio la radio? No, allora, si sente, non c'è in trasmissione, non girano i canali. Chissà che marazzo ci va. Ah, ho capito, e allora tu? Quindi ne stai usando un altro adesso, Anto? Non si sente, l'87 con il MBP4. Infatti la modulazione già è diversa. Un bel forte. Va bene, sì. Qua mi arrivi sempre a fondo scala. E beh, ho grigia. I giorni scorsi avevo la radio Galaxy Saturno di Antonello, me l'aveva lasciato una settimana così a provarlo e gliel'ho restituito ieri. Ho provato, sì, ho fatto qualche collegamento, anche il Brasile ho collegato un giorno che c'era propagazione. Già, è una bella radio, solo che è grande per me, capito, e ho questione di spazio, quindi mi ha detto che adesso praticamente l'ha venduta e lui se ne ha preso una nuova. Uh-huh. Ha preso il 140 Kenwood. Sì, va bene. L'ha mandato in foto. E anche quella è una bella bestia. Ho capito. Ma stavo vendendo quell'apparecchio là, quello grande. 140 stai dicendo? No, quello che ho lasciato a te. Mi ha detto che l'ha venduto. Davvero? Così, infatti mi ha detto portamelo perché ho trovato uno che se lo compra, non so chi sia, o era in trattativa, non lo so. Poi stamattina l'ho sentito un attimo Antonello e poi non l'ho sentito più, ma già glielo chiedo. È entrato stasera. Ma magari non c'è, ma deve essere riuscito adesso. Non lo so, l'ho sentito poco fa. Non è, ci sei in ascolto. C'è il coso, c'è il capo adesso. Che starà regolando sicuramente. Sì, perché quando c'hai la radio nuova praticamente vai alla scoperta di ogni segreto, prova qua, prova là, stamattina infatti stava provando senza dirmi niente, ho detto ma che radio stai usando? È una radio nuova, e io già l'ho capito, gliela ha data Claudio mi sa. Già conosce lui, mi ha dato diversi quelle. Infatti sì, Antonello chissà quante ne ha avuto tra le mani. Adesso mi sa che me ne esco, oggi sono libero, domani c'è un altro giorno, oppure me ne esco a farmi una trottata in bicicletta. Tanto effendi, prima c'era caldo, adesso un po' c'è un filo di aria, vedo, e me ne vado un po' in giro. Io poco fa ero in bicicletta, cioè oggi sono salito in bicicletta, non salito. Infatti questo portatile l'avevo preso, ho detto lo metto in bici, no, perché era piccolino, e invece già a ricevere riceve, ma non vai a trasmettere sul 10, sono tutti in AM, quindi un piffero, capito? Tocca di passare in FM ed è un casino. Ancora che non abbia i codici quel capo di portatile. No, non ne ha codici, Anto. Ma da che era comparato? Beh, perché c'era scritto che trasmetteva in AM e in FM, capito? Così è, però in AM c'è male, capito? Se no, se avessi saputo quello non l'avrei neanche preso. È un TTI TCB H100. Cinese, sì, roba cinese. Anzi, costa intorno ai 100-120, capito? Io l'ho preso in un altro sito, l'ho pagato 79 euro, non è che l'ho pagato molto, cioè la radio funziona bene, tutto a posto, ma ha quel problema lì. No, non andrà assai, grazie. Infatti, adesso questo lo sbologno e pazienza, ne troverò qualcun altro. No, no, però comunque gli apparecchi vecchi sono migliori, lascia perdere. Ma questo era perché, ho detto, è piccolo, ho detto magari esco in bicicletta e ci sta, capito? Infatti lo mettevo nel manubrio a sentire se sento, perché sentivo tutti parlando. E l'altra sera sono salito a Osilo, no, chiamavo Claudio, dice ma chi c'è, ma sei in FM? Ho detto non sono in FM, sono in AM, non ti capisco. Poi alla fine sono riuscito a avvicinarmi scendendo da Osilo a casa sua, e passato in FM dice là ti senti bene, ma in AM esci malissimo. E niente, ho provato anche io a fare qualche regolazione, ma non si muove da lì. Lo so, c'è chi si casa a fare che si offendava a me, ma è un fogaretto così, quelli vecchi sono migliori. E senza dubbio sì, senza dubbio quelli vecchi erano molto meglio. Chiaro credo, via. Vabbè, pazienza, dai, ogni tanto si prende qualche fregatura, però magari già può servire a qualcosa, magari quando salgo per regolare l'antenna, eccetera, già si lascia così. Sì, ne manco. È quello che ho io, l'Intec, quello è buono. L'hai sentito tu, già? Qualche volta l'ho utilizzato con l'antenna piccola. E questo lo stesso, l'ho provato da casa mia a casa d'Antonello, da dentro casa in FM, mi sente benissimo lui e anche io lo sento bene, quindi anche diciamo a una certa distanza, anche se non siamo lontani in linea d'aria, però e mi sentiva bene. Quando passi in AM non c'è niente da fare. AM, cioè non pompa così in AM. E non esce proprio, esce tutto contorto, capito? Eppure c'è la modulazione, il selettore AM, FM, capito? E non va, è pazienza, vuol dire che se ne rimane così, capito? Quando troverò il programma, se si potrà fare qualcosa, si farà, però per adesso è difficile da trovare anche il programma, perché di queste marche un po' sconosciute, e quindi non, diciamo, era accattivante come radio, perché era bella compatta, capito? E sembrava quasi un VHF, se lo vedi, ti mando la foto, così lo vedi com'è, bellina e bellina, c'è anche una buona batteria che dura un sacco, però no, non anda in AM. La batteria è lì, nuovo, attenzione. Sì, le batterie sono buone, durano un sacco pure. Sai che malattia è. Infatti, forse me l'ha detto Gianni l'altra volta, che un sacco di persone l'hanno presa questo tipo di radio e poi l'hanno restituita perché aveva quel problema, non usciva in AM, perché dice frega la gente, perché tu la vedi magari su internet, sembra bellina eccetera, la ordini una radio che dovrebbe funzionare bene e invece c'ha quel difetto lì. Sicuramente le hanno fatte così e manca qualcosa, non lo so, però vediamo in seguito se riesco a sbloccarla. Boh, ci vuole il software. Sì, esatto, c'è pure il coso, il collegamento, capito, del cavetto, però il programma ho provato in mille modi, su YouTube, su internet, a fare ricerche, se si trova, nulla, non ce n'è, chissà che lo mettano prima o poi. Che cazzo è questa cosa? Ehi, roba cinese, capito, che è appena uscito e quindi ancora non è molto diffusa come radio, capito? Quando spero che prenda piede poi mettano i programmi. Il software ci vuole. Esatto. Ah, una cazzata, amico. Qua c'è il coso con l'USB. Se c'è il computer, ma sul coso glielo scarichi. Già un attimo, Anto, che sto rispondendo a una chiamata. Sì, la fai qua. Daniel, ci sei? E qua. Anto, e beh, caldo c'è da quelle parti. E secondo te? Oggi ne ha fatto, 27-28 gradi c'era. In vera sciumazza, non vedremo. Lo credo. Adesso un po' già sembra che stia tirando qualche filo d'aria, qua vedo la roba stesa che sta andando un po' muovendosi, vuol dire che un po' di aria sta circolando. Però stasera alle 3 sono uscito a accompagnare mia moglie un attimo, che doveva andare al centro e c'era la macchina sotto il sole, io dico che c'erano 40 gradi. Macchina nieta? E la Opel Agila nera c'ha mia moglie. Tutto il caldo si prende quella macchina, come la lasci sotto il sole diventa rovente. Tutte le macchine nere sono così. E qua c'è cessi di tempelle di bruci un puro. Lo credo. Infatti alla prossima glielo dico, quando se la ricambia non te ne prendere più macchina nera, piglia di la bianca o grigia o altri colori, ma non nera. E di che calci di più? Perché ne aveva avuto di altri colori e quando l'aveva cambiata l'aveva voluta, proviamo la nera eccetera, non l'ho mai avuta, già sembra bella perché era bella lucida, però poi si sporca anche subito, mi nera, la polvere si vede come niente. Sì, sempre esperienza da voi. Via. È sempre gussia. Allora, prova. Io invece le macchine sempre grigie. Rossa è bella. Rossa è bella, ma devi azzeccare anche il rosso, se no anche molti rossi si scoloriscono dopo un po'. Sì, è fatta bene. Non l'ho fatta, non si scolorisce. Uno niente, se ne c'è trasparente, fate un casino, se non è fatta bene dalla fabbrica. Forse ce ne sono belli di rossi, della Renault ho visto qualcuno bello di rosso, però altre marche sono troppo scuri, capito? No, devo andare a comparare, non è meglio più macchine di pura. Sono ubbiati con pareggio. Io la mia ce l'ho diesel perché viaggiavo, ma ormai il diesel non conviene più, perché prima conveniva, perché la manutenzione è più cara di una macchina a benzina, quella del diesel, però ti faceva risparmiare il fatto che il diesel costava di meno della benzina. Adesso il diesel costa quanto la benzina, per cui la manutenzione comunque del diesel è sempre più cara, capito? E quindi alla fine conviene più una macchina ibrida, ma costano intorno ai 30.000 euro però, e chi è che se la può permettere? Non è che mi devo mettere le rate io o chiedere un mutuo, no, per comprarmi la macchina ibrida, perché hanno la messa in moto elettrica e poi passa benzina, poi quando supera una certa velocità se ne va in elettrico, in discesa va in elettrico, insomma, però costa un bel di denaro. Tu mi dirai, costa accanto alla benzina, ma non consumerai mai quanto benzina, non si preoccupa, a fare il cilindrata quasi. C'ho un 1500 turbo diesel e andava bene, capito? Solo che come sono saliti i costi della benzina adesso, vai a metterla al rifornitore, sia a Città Mercato sia alla Kuwait su a Serra Secca, lo stesso prezzo, benzina e diesel non hanno più differenza. E tu prova ad andare con una macchina a benzina, prova ad andare con una macchina a gasolio a vedere si corre con la macchina a gasolio e dopo consuma. Quello sì, quello sì. La macchina di cosa di mia moglie è benzina, ma lei la usa solo per città, capito? Non viaggia, perché già lavora a Sassari, quindi gli fai un pieno, gli dura 20 giorni, capito? La usa anche per fare spesa, per uscire, eccetera. Io invece un pieno mi fa una settimana e poi sono punti a capo. Sempre quella è la storia. Il gasolio brucia sempre diversamente dal benzina. Nel chilometraggio sì, ovviamente è meglio là, rispetto alla benzina, però troppo è salita il costo al litro del gasolio, perché la benzina anche raffinata costava di più per quello, eccetera, ci vuole più lavorazione. E quello che non riesco a capire è perché abbiano sollevato così il diesel, capito? È così però. Cioè non è che costi di meno, consuma sempre di meno il motore a gasolio. Sì, sì, quello sì, come resa ce n'è di più col diesel, però adesso a 120.000 km devo fare la cinghia di distribuzione con la pompa dell'acqua e sono almeno 300 euro, solo quello, perché se non la fai, se si rompe è un casino. Poteva. Adesso mi maggio c'ho un bollo di una macchina e l'assicurazione dell'altra. Poi ad agosto devo fare la revisione della mia più la cinghia di distribuzione con la pompa dell'acqua. E poi secondo come ci dovrò fare il tagliando. Tra una cosa e l'altra, tra bollo, assicurazione, revisione, tagliando e cose, ci vorranno circa 800 euro. Arrasa. Macchine, perché poi dicono che non costano a tenerle, no? Se, però se non gliela fai la manutenzione ti durano ancora di meno. Guarda, dico, dove non mi pigliava sta macchina? No, ecco un pareggio, va via dal Renault, sono passato a ragano, un pezzo di cazzo di cose si è facciato una lì. Quello una cordicella, un disastro, 200 euro, una cordicella. Ma finnante, la marmita ci voleva un bel di soldi. E poi ho avuto l'incidente con quella macchina, manco male, se ci dà subito. Sono già mollata, no? Non è... macchine così più, basta, finito. Tu, appena me ne vado in pensione, io la macchina la fermo, capito? La prenderò solo quando serve per fare qualche commissione d'inverno, se piove, a fare un po' di spesa e poi a piedi e basta. Allora, piglio una macchinetta di bigli, va. Cosa che è? Una piccolina per la città, già va bene, già va bene. Se la trovo anche elettrica, mi per la città, me la prendo anche elettrica, la attacco in garage, me la carico e mi vuole fare 50 km in città, già basta. Guarda, è inutile, tanto bigli di macchine. Tutti che ci strane così, dopo ti faccio un pezzo, cazzo, ti pieni. Una macchina semplice, normale, ciambioso, candele, benzina, cioè, ti fai il tagliante, boh, finito, senza questa quella elettronica, perché tanto quando ci rompe, Sant'Antonio mio quando entra in officina. Più semplice è, meglio è. Infatti mi ha fatto bene un amico mio che se n'è andato in pensione e si è preso di seconda mano una Panda di quelle 4x4, no, perché lui va anche in campagna, e gli ha fatto tutta la revisione, tagliando, gli ha messo gomme nuove, gli ha fatto i freni e tutto quanto, e l'ha pagata tipo 8.000 euro, ci ha messo altri 1.000 euro sopra ed è un gioiellino e c'ha 70.000 km. Oh, buono, che una meraviglia, poca manutenzione, poca roba, non spendi tanto va bene, avere la vacca fatti sanguati, ne amare che li venga. Infatti gli ho detto, questa adesso se tu gli fai la manutenzione ti dura altri 10 anni, se la macchina ne aveva 10 gli dura altri 10 anni, capito? Se non di più, perché quelle 4x4 sono anche più resistenti, capito? Per i fossi eccetera, perché hanno i rinforzi sotto e anche gli ammortizzatori sono più rigidi, capito? Della nuova, Era di un signore anziano che l'aveva comprata e la usava poco, poi la stava prendendo la figlia adesso è andata via e ha trovato lavoro fuori dalla Sardegna e quindi questa macchina lui non la usava, l'ha messa in vendita e lui, perché era un vicino di casa, l'ha saputo perché gliel'aveva già chiesto, non è che la vende la macchina, tanto ce l'ha sempre giù nel cortile, dice sì la sto vendendo, me l'ho messa in vendita e quanto se l'ha presa subito al volo, capito? Perché non ne trovi di quelle, è difficile trovarle. Basta, ha fatto. Io farò lo stesso, mi prendo come hai detto una macchinetta con poca manutenzione e via, paghi poco, anche di cilindrata piccola, tanto una volta che non devi più lavorare ti serve per 2 giretti e basta la macchina, non è che ti serve ad altro. Non sai quanto vanno bene quelle panda? Lo so, quelle vanno bene anche in campagna, capito? Lui siccome ha una campagna a coso, a Romana, e quindi ogni tanto ci va, capito? Dice fa un pezzo di strada sterrata per arrivare, però non è che... Ha detto che va bene, che entra anche dentro, in mezzo alla campagna, capito? E dice che cammina bene. Attenzione sul canale 10, sentite il doppio room, cambio. E triplo room. Buonasera a tutti, dai. Non so come sto arrivando, aspetta che sento la radio, se no non sento, non vi sento a voi. Non so come vi sto arrivando, la parte mia è zona Predanito. Macchina sei già. Cappa. Arrivi bene qua, vai Antonio per Gianni. Ciao Gianni, mi senti? Sì, ti sento, un po' bassino qua, ma già ti sento. Ma mica tanto, qua già stai arrivando bene. Cava, dai, meglio così. Gianni, Santiago 9 più 20 qua mi arrivi. Una bomba. E vabbè, io già sono anche in alto, capito? La zona di Predanieta, già ci arrivo bene lì, da quelle parti, da casa. E meglio sono in macchina però. Buonasera a tutti comunque, dai. Già va bene. Gianni, ho visto la tua radio da Vittorio. Me la sto portando via. Te l'ha riparata? No, non si può fare nulla. È tutta incasinata, non si può fare più nulla. Aia, io l'ho vista ieri, l'ha pure accesa quando c'ero io per provare una radio che gli ho portato. Non gli ho detto niente, ma l'ho pensato che fosse la tua. Ciao a tutti, buonasera. Cosa vuol dire tutta incasinata? Un tecnico non riesce a metterla a posto perché è incasinata. Vabbè, non c'è problema. Non fa nulla. Vabbè, se non fa nulla a te, io queste cose ci tengo. Grazie. La mia è la più incasinata di chissà. Non è tolto il piede di Fabrizio, ma non perché non sia bravo, che non ce n'è per nessuno, ma proprio perché era talmente incasinata che ci ha rinunciato. Però quando uno ha la strumentazione come lui, che te vuol dire incasinata? Se non era incasinata non te la portavo. Ma ci vogliono troppe ore di lavoro, capito? Sono stati fatti dei lavori male, deve cercare le piste e tutto quanto, un casino. Sono stati fatti dei lavori male, cioè tu non hai mai stata toccata con la radio. Vabbè, già ce n'è posto al ferrovecchio. Vabbè già, contento tutto, va bene così. Ma queste cose non le concepisco, vabbè, se uno va a dire che la faccio, invece di incasinata, è chiaro che va controllata. Vabbè, ok, vuol dire che si va avanti, io già questi dicchi. Io l'ho vista che funzionava ieri, l'ha pure attaccata. Sì, funziona. funzionava, la ricezione ce l'ha, ma non ha la trasmissione. Fatti dare il numero di telefono da Massimiliano di Albino, se ce l'hai, ti fai un salto a Boro, sono 60 km già, ne la dai Albino. Magari te la mette a posto questa persona che ti sta dicendo Claudio. Ma stai scherzando, Albino la rifà nuova quella radio, ma cosa vuol dire incasinata? Ma di cosa siamo qua vedendo? Fatti dare il numero di telefono a Gianni, tu non hai intenzione di mettere a posto quella radio. Io non c'ho tempo a seguirti, se non avete visto che c'è radio da posto. Prova a portargliela a Morole, e magari fa ragione, cioè, cazzo gliela te la mette a posto e va bene. Altro che quello ha fatto Albino, è un mago c'è quelle cose. Gianni, ma il telefono ce l'hai? Sì, ce l'ho in macchina. Vabbè, aspetta che ti chiamo un secondo, perché sennò qua c'è troppo polemica. Comunque, io l'ho vista la radio di Gianni ed è anche bella e nuova, è nuova. Io penso che ha ragione Claudio, quella aggiustata bene diventa una cannonata quella radio. A voglia. Oh, non è per dire, ma c'è una ricezione questa radio che è una cosa funzionante. Io ho provato quella di Antonello, che è, diciamo, è buona come radio, ma quella di Gianni che ho visto ieri era ancora più nuova, capito? Quella di Antonello si vedeva che era un po' anche esternamente, no? Come scocca, era un po' logora da usata, no, buona, però invece quella di Gianni proprio sembra nuova, anche ben trattata, tutta pulita, era peccato di radio comunque. Comunque già, no, comunque questa qua mi sto accorgendo, chi da pigliava un bel di mondetta. Questa, la ricezione è molto buona, altro che. Diciamo che quella di Gianni, se trova una persona che è in grado di metterla a posto, si deve far dire quanto più o meno andrà a spendere poi, capito? Però se il gioco vale la candela, nel senso che ci spendi 100-150 euro e te la mette bene a posto, e poi eventualmente la puoi rivendere, capito? E ne tiri fuori anche qualcosa, perché se la radio è messa a posto, quelle lì ci fai anche un po' di quattrini, questo è vero, questa radio. Perché su internet ne ho visto, ma tutte malconce, eccetera, non sono così, 150, 200 euro, 250, però, capito, se è bella funzionante, risistemata bene, insomma, penso che anche 300, 350 euro se li valga. Sì. Bene Mela, io un attimino mi sposto, faccio un attimo di bianco e rientro tra 10 minuti e un quarto d'ora, tanto poi magari saranno rientrati anche gli altri. Sì, poi qua non c'è problema. Cappa, a dopo. Passiamo qua. Hola, hola, hola, hola. Beh, tutti morti siete. Aspetta, Peppino, la trippa. C'è nessuno qua, no. Io che vedo più fosse bu. Io che vedo il ventole, mette il ventole, vabbè. Il sugar, tutto ventolato. Questo basso basso che sento, chi è? Sono io questo basso basso. Lo più forte. Beh, per quello che mi chiamano lo più forte, a chi sono Gomascio. Dai, no, sto scherzando, dai. Sono via Milano adesso. Cappa Rogero, buonasera a tutti, dai, appena atterrato alla mezz'ora. Cosa Massimiliano? Non ho capito. Ho detto che sono appena atterrato alla mezz'ora. Bene, bene, si è atterrato alla mezz'ora, già va bene. Di Russo, e tu già, dove sei? Via Milano, che ho sentito. Direttore, via Mosca. Anda Mex. Via Mosca 02. Direzione via Milano. No, direzione via Mosca, dove ci sono le mosche. la vista mi ferma, ragazzi, arriva nel buco vuoto. Sta disturbando di brutto. Disturbano sì, alla grande. Ecco, ma si disturbano. Sì, mi devo buscare un legnaletto a 12 a attaccare a questo garage. Ma sì, io ce l'ho solo quello. 12, non ne ho altri. Franco ce l'ha messo, Franco Califfo ce l'ha, l'avevo volato io. Sì, vabbè, ma non è che mi interessa, ma giusto quando capita così per dare un aiutino. Sì, come faccio io, no? Te lo tengo sempre attaccato. Quando capita, tiro sul pulsante, 80-90 volte, li tira fuori ed è un aiutino. Sì, mi scuccia che devo cambiare il piede, agganciarlo qua, mi hai capito? Se no, l'aiutino già c'è, ma un aiutone. Lascia il candie, Ghiscio, lascia il candie, non ti piace dare un Ghiscio, ce ne vuole un altro. Carpa brioscia, avanti, Giamme. Santiago 9, questo qua sta arrivando in FM. Aiutaci che deve di Santiago 9. E Gianni dove è arrivato? Non lo sento. Gianni! Non so se è via Mosca. Gianni, sì, forse doveva scendere, beh. Doveva andare. Ah, ho capito, via Mosca, sì. Ho capito dove. E via, sono sceso dalla macchina, beh. Non c'è più la casa. Aspetta che mi sta squillando un attimo il telefono qua. Ehi, già sono qua. Rieccome. Ehi, Carle, me devo allontanare un attimo, c'è Gianni che è sceso un attimo dalla macchina, Massimiliano che arriva subito. Un secondo solo. Sì, già sono in ascolto qua. Carpa primo, ce l'ha che ho il cellulare in classe. Mi è arrivata una chiamata di lavoro. Ok, vai avanti. No, Massimiliano, Claudio si è spostato un attimino anche lui a fare qualcosa. Sono Carlo, come sa va? Sono altro bene. Ciao Carlo, buonasera, ben sentito. Prima ho sentito quando sono entrato io che tu stavi rispondendo al telefono, quindi sono entrato io, ma Claudio poi forse gli è arrivata anche lui una chiamata e mi ha detto che c'è Gianni che però è in via Mosca a ritirarsi la radio, sicuramente da Vittorio. Ah ok, è finita, già tutto a posto. Negativo, dice che non si può far niente. Non si può far niente? Così diceva lui prima, che praticamente ci sono le piastre, non so cos'altro ha trovato, che non ne ha voglia di farne. Infatti Claudio gli stava consigliando un'altra persona che è fuori Sassari, perché la radio, io l'ho vista proprio avanti di quella radio lì, quel laboratorio, ed è veramente ben tenuta, veramente ben tenuta. Il quadro anteriore è tutto bello, lucido, pulito, ed è un peccato, capito, che non si possa mettere a posto. Allora Carlo, io ti dico una cosa, quello non ne ha voglia di fare il radio, te lo dico io, sicuro, ma non al 100, al 1000 per 1000, quello non ne ha voglia di buttarci tempo a fine, quella radio si può mettere a posto, ma sono sicuro al 100%, guarda, io ho persone che gliela mettono a posto al 100%. Lo so, già ho sentito Claudio, mi sa che ha fatto anche il tuo nome, che tu dovresti avere il numero di una persona che sicuramente gliela mette a posto. Io ci sono stato lì al laboratorio dove è la radio di Gianni per risolvermi un problemino di una radio portatile, no? una cavolata, e anche a me mi ha liquidato, mi ha detto che ci vuole il programma qua e là, io io gli ho detto guarda che ho trovato un tutorial su, ma io non ho la strumentazione quindi non sono in grado, però anche a me mi ha dato quell'impressione che non è che ne abbia molta voglia o forse non ha pazienza per queste cose, capito? Beh, sicuramente sarà così, no? Io non devo criticare a nessuno, però quando uno lascia una cosa le dice guarda te la faccio o non te la faccio, io so dove l'ha portata, è in grado di sistemargliela, quello sicuramente è pieno di lavoro e gli ha tolto una scusa che deve fare tutto qua per me, voi amici ne ho parecchi, ma molti, e quindi se lui vuole io per sedere in macchina si fa 50 km, vai alla porta e ne prende una miseria. E infatti, perché veramente se la vedi quella radio te ne viene da piangere perché sembra nuova, capito? Ma io l'ho vista, quella radio io l'ho vista, ma io poi conosco a Gianni una vita, so come tiene la radio, capito? È un maniacale della radio. Quindi non lo conosco bene, però bisogna vedere anche lui che disponibilità c'è nel portafoglio per sistemare, c'è da vedere anche quello. Infatti dai, magari poi ognuno sa delle proprie tasche, Massimiliano, e vabbè dai, prima o poi la metterà a posto se ne ha voglia, se no magari la vende così e sicuramente trova anche qualche compratore che la compra in quelle condizioni e poi se la aggiusta. E ma in quelle condizioni, Carlo, tu cosa la puoi vendere una radio così? Più di 100 euro non la puoi dare, perché così, alla fine, per avere 100 euro in tasca, non ne vale la candela, magari ne spendi 50 e te la metti a posto, hai capito dove è tutto il discorso? Perché tu, una radio del genere, non funzionante, perché la devi vendere come non funzionante, più di 100 euro non si vale quella radio. Lo so, ne ho visto anche su internet, 100-150 euro, ma solo per pezzi di ricambio, capito? Già le vendono intorno a quella cifra, 100-150, però messa a posto 3-3,50 pure, perché quella è veramente buona come radio. No, dai, non esageriamo, guarda, il prezzo del Galaxy Saturn è 250 euro, c'è gente che lo vende a 300, c'è gente che lo vende a 250 euro è il suo prezzo, poi c'è gente che lo dà a 200, poi dipende sempre da chi lo vende, perché il prezzo suo è 250 euro, ecco, diciamo così. Ho capito, però è bella, è come radio, io l'ho provata la settimana scorsa, ho tenuto tutta la settimana quella di Antonello Pomponi, oda, e me l'ha prestata a provarla, è bella come display, come funzioni, completa, attacchi la spina, non ha bisogno di alimentatore, attacchi la spina, l'antenna e va quella radio. Non so Carlo, io sto modulando con quella, questo è un Galaxy Saturn con il Tarn più 3B da tavolo, io sto modulando con quella radio. Con quanti watt ce l'hai? 10-20 watt quella? Allora io questa l'ho comprata in continente da un mio amico che ha un laboratorio che modifica radio, è un radioamatore, tutte cose. Allora io questa la tengo con i watt tutti chiusi che c'ha di portante bianca a 2 watt. C'è il picco che arriva a 30 con 2 watt, capito? No, è già di assistente che stai modulando con una buona radio, non lo sapevo che anche tu l'avessi quella, però la radio è bella veramente, c'ha anche una ricezione ottima come radio, quella è fenomenale, poi si sente veramente molto molto bene perché ha l'uscita audio frontale, quindi ha voglia. Positivo, va bene, guarda, questi sono i watt tutti chiusi, per farti un'idea. Così ho portato i watt a metà, il power, e così ci sono i watt tutto al massimo. Non so se ti ha cambiato qualcosa. Sei passato da Santiago 9 più 10 a fondo scala completo. Ecco, adesso così sono i watt tutti aperti e sono intorno ai 35 watt. Con i picchi sempre positivi perché io li vedo da qua. Sì, e vuol dire che te l'hanno portata su, perché quella di cosa di Antonello non ce li ha, a 30 non ci arriva, mi sa. Quindi io la tengo in questa maniera: power tutto chiuso, portata bianca 2 watt, il picco arriva a 30, ma io te lo dimostro, non è che sto dicendo cazzate, te lo dimostro proprio. Adesso Massimiliano, ne posso approfittare? Come ti sto arrivando io? Lo puoi vedere il mio segnale? Sì, certo, 9 più 20 su questo smitter. Ok, adesso provo a mettere al minimo il pump. Prova. 1, 2, 3, mi senti? Allora, ti ascolto, Santiago, 8, ma la radio è bassa, molto bassa. Così va meglio? Così c'è 9 più 10, la radio è super 5. Ecco, adesso sto uscendo con 4 watt. È buono, 9-10 qua, E vabbè, io per dove abiti tu sono molto buono come posizione. Sì, sì, già me l'hai detto l'altra volta dove sei tu, a Voglia, sì. Infatti anche io ti sento benissimo qua. Poi? Cappa già, va bene, sì, no, tu sei in una posizione ottima per me. Avanti, chi è? Sono Deo sempre, Deo. Allora, ciao già. Dai, una chiacchierata con Carlo mi stavo facendo. Cappa, dai, non voglio interrompervi allora, dai. Di che cosa stavate parlando? Che io non c'ero in macchina. Niente, stavamo parlando che io ho il Galaxy Saturn e tutto qua, capito? E stavamo parlando anche della tua, che questa cosa non è vera, che non si può sistemare. Che in poche parole, secondo me lui non ha tempo di farla, tutto qua. Non lo so. Ha detto che è un bel casinato all'interno. Era nuova quella radio, ma è aperta, Ma l'hai ritirata? Sì, l'ho ritirata. Ma già, se tu vuoi io ti do un contatto, sono sicuro, guarda, ma non al 100, al 200 o al 1000 per 1000 che te la metto a posto. Se tu vuoi un contatto, mi chiami e ti do il contatto. Vabbè, dai. Vediamo un po', dai, perché metto a posto, adesso è un casino. Troppi soldi ci vogliono. Come troppi soldi? Ti ha chiesto troppi soldi, non ci voglio. Me ne ho speso già 40 euro, poi 40 saranno per spedirla. Poi ci sono i soldi per pagare il lavoro, che cazzo devo spendere, non mi conviene più. Ho già, con 20 euro di gasolio arrivi a Borone e torni indietro. Con 20 euro di gasolio. E di lavoro non ti prenderà più di 30 euro, sono sicuro al 100%. Dito di raggio io già, adesso te lo ascoltami. Forse magari manco di biglia 30 euro. Ora? Sto uscendo, sì. Aspetta, è troppo basso. Oh già, ti dico anche un'altra cosa. Tu una radio come quella, più di 100 euro non funzionante, non riesci a darla. 100, 120 euro. E io sono sicuro che tu con 50, 60 euro la metti a posto. Poi fai tu. Io, ciao Cla, io più di questo non le posso dire. Tu sai già il posto e la persona, quindi sono sicuro, ma non al 100, al 1000 per 1000 che gliela metto a posto, con una miseria qua. Le ho già detto, proprio di quella persona lì, io conosco e lo stimo tantissimo perché è una persona onesta, le ho già detto, ti scegli in macchina, se vuoi vengo anche a farti compagnia, se ho tempo, se no vai dalla raggiura. Desiderio di gasolio, ho già vinti, che è in Chivi, ho già vinti, desiderio di gasolio con quella macchina, poi lui aggancia, a tasso zero, lei l'aggancia, lo chiama, gliela porta, canda, è pronta, anda, ce la ritira. Cosa vuoi ti dica? Io sono sicuro che con 20-30 euro di lavoro gliela metto a posto, poi se vuole lasciarla così, la lasci così. Io non è che posso guardare la tasca degli altri. Tanto qua, ti ripeto, una radio non funzionante così, in quelle condizioni, più di 100 euro non la puoi dare, perché chi è che ti la compareggia una radio non funzionante? Vedi, io non lo so, io parlo per me, capito? Non parlo per gli altri. Avanti, K! Carlo? Via, me la compro io a 100 euro, dai. Guarda, tu la compri a 100 euro, aggiungi altri 50 euro e la facciamo funzionare con la radio. Io ne metto anche altre 100 se me la fanno bene. Non rispendi 100 euro per quella radio a farla funzionare, ma ne sono straconvinto. Vediamo cosa dice Gianni, dai. Ah, io scendi, sono in macchina, ce l'ho in macchina, te la do subito. Prendila Carlo, 100 euro, prendila. Mi che te la prendo davvero Gianni, eh. Raga, scendi, te la prendi. Almeno qualche cosa la ricavo e mi prendo un'altra parecchia. Ehi, con 100 euro non è che pigli a 6 cosi, eh. Come vuoi, Migia. Aspetta che guardo, se ce li ho io scendo, mi dici dove sei, ti raggiungo. Ehi, ti ho, eh. Prendila Carlo che poi ti do il contatto telefonico e lo chiami, dille che sei un mio amico. Il problema non ce n'è. La metti a posto subito. Si può mettere a posto volentieri, allora ce li metto sì 100 euro e poi quello che sarà aggiustarla. Tanto andare a Borore non è lontano da Bonorva, quando scendo a Bonorva allungo un po', passo là e il tempo che se la vuole tenere se la tiene. KK, metti ti d'accordo con Gianni. Gianni, decidi se Colimmi è sì o no. Se la devi vendere te la compro io a 100 euro con la radio, io. C'ho due già. Cosa? Tu la devi prendere Carlo, te la metti a posto tu? Mi sa che faccio così. Fai, fai, fai, non c'è problema, a te massimo rispetto, se ci sei tu prendila tu, se no me, se non la prendi tu te la prendo io, adesso subito, 100 euro la mando io al centro assistenza, non ti preoccupare. No, adesso dove sei Gianni? Sono quasi vicino a casa tua, sono via Luna e Sole, dai. Sì, ce l'hai in macchina, io fai subito, se no mi vale, me la prendo io. Se giri in via Dau al numero 3 mi faccio trovare giù. Cappa. Ma poi voglio vedere un settore cosa si piglia, un carraggio. Ora, praticamente da via Luna e Sole tu, se stai scendendo dalla parte alta, arrivi davanti al bowling, scendendo verso Mater Ecclesia, la prima a sinistra, dopo la rotatoria, la prima a sinistra, quella è via Dau, la percorri e poi al numero 5 già mi trovi. Gianni, dove c'era l'escorradio e me? Ma poi con 100 euro già ti prendi un carraggio. No, gli hanno mandato una giunia, non manco da 750. Comunque dai, va bene così, se non la vuoi riparare se la prende Carlo, se no me la compro io. La metto direttamente dentro la scatola e parte subito la Ciccio Cobra. E cosa fa? Buonasera, scusate, sono entrato a gamba tesa che non, praticamente non ho ascoltato. Allora, scrivi Gianni. E beh, cosa è successo, perché? E lui non lo vuole aggiustare e ha detto che se può se lo vende a 100 euro, glielo compro io, poi lo aggiusterò io, quello che ci vuole, ci vuole. E cosa ci vuole? Un finale, un prefinale vivo Raranchivi, originale, non i diginesi, i diginesi in Chivi non funziona. Allora, chiudete questa cosa, se no mi, ce l'ho già davanti a me i soldi, la compro io. Sabato a Mazzano, fermo un bacco, Massimiliano, la spedisco a Ciccio Cobra. Gianni, dove sei arrivato? Sono sempre vicino a Canopolena. Arriva la rotatoria, entri ancora in via Luna e Sole e poi, una volta che passi il bowling, la prima destra che trovi, entra lì e vieni avanti. Già mi trovi in strada, ho una camicia blu. E i pantaloncini corti con le ciabatte. Poi in jeans sono, in scarpe da tennis, perché ero uscito prima. Papa di Rogero, Natalino, buonasera per il Vella. Bonsoir, merci. Cesso, cosa sto sentendo? Ah, ma c'è idea. Guarda, se tarda di 5 minuti, sabato spedisco la radio a Ciccio Cobra. La vostra nuova, nuova, nuova, ma che la vostra va accolta, buro. Noi abbiamo fatto una passeggiata, ci avrei accompagnato io sabato qua. Desidero il gasolio per seguire, la carità. Va bene, va bene, poi ognuno è libero di fare quello che vuole. Ah sì, sì, sì, siamo andati dal vino assieme, ci hanno voluto una berretta, l'avevo fatta fare roba nuova con la radio, vabbè, ognuno è libero di decidere come vuole della roba sua. mi è successo, io ho ascoltato un amico, l'820H Giarusai, l'ho spedito al centro assistente, è rientrata la radio, 6 mesi di garanzia, nuova, nuova, nuova, perfetta, come il giorno che l'ho comprata. Fai così, brava, cioè ce l'hai, ha speso 40, anche che ne spendi altre 50 a metterla a posto. Vale, comunque, ti ripeto, ognuno è libero di fare quello che vuole. Poi, Giarusai che radio con 100 euro cosa c'appi? Carraggi e boom. Vabbè, lui aggiunge se la compra. Non è quello il problema. Ognuno ha la tasca sua, fa quello che vuole. A Carlo, l'ha comprata a Carlo. Ci facciamo un salto da Albino. Quando non lavora, gliela lascia Albino. KK, fatela fare, fate. Ciao Natali, buonasera. Cosa Massimi che mi ha chiamato Anna? No, stavo salutando a Natalino, che l'ho sentito adesso. Natalino per il Bella. Però non mi ha salutato, sicuramente, ma niente. Lui lascia mangiare il pulvino, che lui a quest'ora deve fare colazione, deve fare merenda. Ho detto 40 barra, sto guardando avanti 2,50, sono a 40 watt, picchi di 80, cazzo. Mica si vede, sì. C'è uno spazio vuoto qua. Massimi, lo sai che ti voglio bene. Una giro me ne è rimasta a me. Ma è piano casa, alla fine ha fatto. Sono tanto non lo sento. Là non c'è quasi più nessuno, va. Se ti dico che la mia è spenta, mi credi? Accendo adesso, c'è, vabbè. QRM, guarda, QRM, guarda. QRM. Ecco. Siccome c'è QRM, spegniamo di nuovo. Ho visto che c'è un po' di assenza, là. Ma bene o male qua, là. O uno o l'altro non la c'ha più sempre, che da Giarusai come ti funziona, là. Vabbè, ma non è che devi vivere in due nuove. Se accendo l'HF c'è il mondo, Massimiliano. C'è il mondo in 40, in 10, in 15, in 20, in 80, quest'ora. C'è il mondo, Giarusai. Tu l'hai avuto l'HF, quindi. C'è le antenne e ti fai una chiacchierata lì. Quella frequenza lì è come questa, né più né meno, una frequenza monitor, capito? Vabbè. Sì, ma fate così, Cla. È come il canale 10 quella cosa, è tutto lì. Va bene, là, ho sentito che è stato Dio Momolo. Allora, buonasera a me. Ciao a tu, buonasera, ben ascoltato. K, ben ascoltato anche a te. K, là. Cla, se mi dai un secondo voglio provare la radio che mi è rientrata ieri, per vedere se è tutto a posto. Buona sogno, ciao Bombo. Qui, sì, mi sono uscito un attimino. Adesso sono rientrato dietro me a Massimiliano. Sì, adesso attacca l'altra radio e vediamo com'è, gappa. Prova. Ah, si vede che ha già aumentato, sì, alla grande. Datemi un minuto solo, Massimi, un secondo solo. Datemi un secondo che devo chiamare il telefono. Ma non mi senti col Di Polo? Io già ti sento. No, adesso sono con l'altra radio, ma non mi sentivi con l'altra? Negativo, non arrivavo qua. Qua da te non ci arrivo col Di Polo. Ah, forse no, non c'è, dai. Natali, perché parli di ciò? Carlo? Ocla. Davvero? Davvero. Buonasera. Ciao Daniele, ascolta, dammi un controllo con l'altra radio, vediamo se arrivo da te. Ehi, prova Massimilia. Ma non ci arrivo da te, ma non so se non è sta radio. No, non sentivo niente Massimilia. Sto aspettando. Spero un attimo. Papà. Un attimo, ti sei perso. Non intendia niente. Cosa, bambini? Fammi, sono 2-3 ore, no? Dove arrivo? La sei avanti. Ah sì, lei a Massimiliano, io ti ascolto, 9, 6 qua, più pio, diciamo, dai, andiamo a bene. Dai, diciamo che sto usando di polo, adesso sto usando, era giusto, siccome l'ho dato a una persona a provare, volevo vedere se era tutto a posto, là. K6, addirittura 7 e modulati 8. La radio è sempre buona, è che c'ho propagazione qui, vabbè, ti tappavano Massimiliano. Ok, dai, era solo per provare, c'era tutto a posto, tutto qua. K, dai, detto Don Roger, lo dai. Ok, dai, va bene, sono passato con l'altra. Era giusto per vedere se era tutto Roger King, là. Santiago 1 eri qua, Cosa? Qua eri uno, proprio basso, eri. Ho sentito che c'è anche Gianni. Stavo usando un dipolo, quindi l'ho tenuta attaccata al dipolo giusto per provare, là. Ma ho sentito che c'è anche Gianni, avanti. Gianni era, forse stava andando da Carlo, perché non si sente più Carlo. C'era anche Natalino, c'era anche Claudio Sparviero. Ehi, avanti, chi è che sta chiamando? C'è qualcuno che sta chiamando, fatelo entrare voi. L'ho sentito pio. Ehi, a futtidino, no. Vai, Daniele. Caffa, l'ho sentito anch'io, che ma non ho capito la parola lì, c'è, che vuole entrare, lasciamo qua. Va bene, oggi è chiusa la propaganda, di là, Massimiliano. Non sente nessuno. Massimiliano, scusati dal telefono, fammi sentire la radio. Ciao, Daniele. Ciao, Claudio. Guarda un po', classe, tutto a posto, col di polo però, attenzione. Sì, S8 Radio 5, va bene. Ok, là, tutto a posto allora. Daniele, stamattina ho trovato il tuo amico, quello che eri a Tergu. Ah, ho capito. Ehi, quello con gli occhiali, altri smar ci siamo visti. La mia collega. Sì, già me l'ha letto. Gappa. Anzi, poco bomba a radio. Ulla. Ci sta arrivando, Dani. Bene, qua, 9:10, sì. Attacchi positivi. Guarda che stanno chiamando. Ascolta, se mi date 10 minuti vado a farmi la docetta, allora, vi ascolto, però riprendo dopo, ok? C'è qualcuno basso che sta chiamando. Propagazione, Antu, propagation. Vabbè, varia cosa, mi varia Gianni. No, Gianni, no. Pisitemi, buonasera, ascolti qua. Che è? Sabrina ti ascolta, chi sei? Piscitelli, non so se ascolti. Piscitelli, beh, a te che c'è la piscita grande. avanti, la Sardegna ascolta, avanti. Ha detto Piscitelli si chiama. Così ti ha detto. Piscitelli.